Una buonasera, un buongiorno per chi ci ascolta sul blog 451 frammentisonori.noblogs.org, ovviamente da Max Macchia che vi parla nelle frequenze di Radio Città Fujiko, oppure appunto dalle faccende, come amo dire, insomma da un po' di tempo a questa parte, legate appunto a internet, in questo caso in particolar modo appunto al No Blogs. E 451 frammenti sonori che ritorna per l'appunto con una trasmissione che così da queste parti abbiamo voluto titolare 2000 Symphony Space. Che cos'è 2000 Symphony Space? È intanto un omaggio a chi di fatto, e gli omaggi veramente sono stati fatti a iosa anche nei vari 451, a chi si è dato appunto ai voli spaziali, in questo caso le sinfonie. E perché 2000? 2000 perché c'è una sorta di retrofuturismo, potremmo dire, di futuro reinventato, come artiste nuove, uso tra l'altro appunto il femminile proprio perché di artiste si parlerà, poi ci sarà una coda maschile alla fine di questo 451, frammenti sonori, ma di fatto è dedicato sia al Buchla sia appunto ai grandi come dire pensatori musicali spaziali che hanno spazializzato e che spazializzano soprattutto in termini sia appunto di spazializzazione fisica di ambienti che prevedono appunto sonorizzazioni musicali o più o meno tali, e sia ovviamente una spazializzazione più generale, se vogliamo, anzi forse le cose che si metteranno saranno più sull'onda di un'emotività che però diventa anche una sorta di viaggio, anche se vogliamo, che dall'intimo poi va verso insomma l'esterno, quindi riesce a esternalizzare questa visione che sembrerebbe per certi versi forse inizialmente solipsistica, e poi invece trova questa grande comunicazione proprio nel farsi appunto spaziale, astrale. E 2000 Symphony Space, appunto, per 451 frammenti sonori, non poteva che iniziare, in realtà poteva iniziare con molte altre cose, però ci è sembrato il caso. Io uso ancora il plurale, poi insomma ogni tanto esce anche quello maiestatis, ma vabbè, di fatto insomma è ancora una forma così che vuole appunto spazializzare e vuole spaziare anche 451 frammenti sonori, per quanto insomma appunto ci sia ancora questo tentativo. Ogni tanto mi escono anche i plurali maiestatis, non svelerò quando escono e quando invece è di fatto qualcosa di più largo, ma poi le musiche appunto ci accompagnano e portano ovviamente anche appunto a come dire a spazializzare, a spaziare appunto in termini molto più invece semplici, e spaziando, quindi semplificando la faccenda, ma neanche più di tanto, Kathleen Aurelia Smith fa un omaggio sia a se stessa appunto per una sorta di ricerca appunto interiore, intima, che fa attraverso il Buchla. Questo è un altro dei grandi riferimenti appunto di questa sera di 2000 Symphony Space, e tra l'altro c'entra anche molto con un immaginario legato al 2000, un immaginario che ovviamente non poteva andare che altrimenti, ma è detto ovviamente un bel po' di anni dopo. Non è stato il 2000 che si immaginavano, ad esempio la Susan Chani, che sentiremo appunto dopo, proprio associata tra l'altro a Kathleen Aurelia Smith, neanche il 2000 che ci immaginavamo quasi tutti, insomma, con le famose macchine volanti che non ci sono, insomma. E come macchina volante appunto prendo un riferimento che non è casuale e non è neanche poi tanto da poco, visto che su una una particolarità del genere, poi si è creato anche appunto un immaginario che, se volete, passa dalle macchine volanti appunto di Dick, Philip Dick, e poi attraversano anche la cinematografia di Blade Runner, ma non solo, ovviamente, tanto per citare un 2000 e con un immaginario decisamente potente che sta dentro appunto il secolo scorso, il finale del secolo scorso. Il Bukla era ed è ancora uno strumento che fa intravedere futuri possibili, e di fatto Kathleen Aurelia Smith con il suo IRS ci porta verso questi futuri, con anche se vogliamo queste sorte quasi di ritorno, quasi appunto alla una sorta di intimità che è vissuta più che altro in termini emotivi, emozionali, potremmo dire, nelle sue musiche, e anche con momenti così, che dentro Years, questo disco che apre appunto questo 451, ci portano anche verso un mondo pop, sicuramente un pop futuribile, ma come appunto poteva essere pensato da appunto la Ciani, che ascolteremo appunto dopo proprio con Kathleen Aurelia Smith. Years vive anche quindi di contraddizioni, potremmo dire, tra spinte appunto in avanti, quelle spinte appunto spaziali, futuristiche, e invece momenti anche di pop non manierato, perché non lo è mai, ma sicuramente di un pop anche che torna un po' a casa, ecco, e non crea appunto quelle situazioni ulteriori che invece nei pezzi che stiamo per andare a sentire di Years, ma anche lì c'è una sorta di appunto di ritorno o in nuce, questo appunto questo quasi feedback personale emotivo che si sente e che viene appunto trasmesso senz'altro in maniera decisamente diretta, e questo è un grande pregio di Kathleen Aurelia Smith per appunto iniziare questo viaggio appunto sinfonico, spaziale, nel pieno 2000, non quello però appunto che si immaginava qualche decennio fa, ma quello che ci stiamo vivendo, e quello anche di appunto Years che ci andiamo ad ascoltare. ha dei momenti quasi magici il disco di Kathleen e Aurelia Smith, Ears, forse magia anche dovuta a questa grande influenza, come lei stessa dice, sia dai disegni di Moebius, sia da dato grande disegnatore che è appunto Miyazaki, e con in particolar modo Nausicaa che è stata particolarmente influenzata da questa visione, e in effetti ha questa visionarietà la musica appunto di Kathleen e Aurelia Smith, con tanto anche appunto di avete sentito di inserto, potremmo dire pop, ma non si tratta poi di inserto, ma semplicemente di abbandonarsi anche appunto anche in lande, potremmo dire più serene, più pop in questo senso, ma sia l'utilizzo del bucla che la vede una delle protagoniste, e veramente nel vero senso della parola del riutilizzo di uno strumento che per molti versi è sempre stato come dire un punto di riferimento per strumentazione elettronica, ma soprattutto per quella generazione appunto che immaginava un suono futuribile, se non addirittura appunto futuristico. Se pensiamo che il bucla come strumento nasce di fatto musicalmente, potremmo dire, con Morton Subotnick, e quindi con uno dei grandi padri delle musiche elettroniche, tra l'altro anche con quel senso di noise che c'è nei primi lavori di Subotnick, quel senso futuristico veramente è molto anche accentuato nelle opere appunto del grande compositore americano. Don Buchla poi creerà un sistema MIDI legato alla strumentazione, quindi implementerà la possibilità del bucla. Poi negli anni 80 ci saranno strumentazioni anche forse più alla portata, potremmo dire famosi Korg, tanto per citarne uno, le Roland per l'house e per certe elettroniche, e quindi bucla, come dire, rimarrà un oggetto mitico, però insomma non di fatto poi tanto utilizzato. La cosa invece da un po' di tempo a questa parte, tra l'altro proprio nell'avvio appunto del nuovo secolo, o se vogliamo del millennio, visto che stiamo parlando di 2000, viene proprio riscoperto tutto quello che è tutto, buona parte, il tentativo è quello appunto di andare a ricercare quasi tutto lo scibile delle musiche elettroniche, quasi a trovare una filiazione e anche a ritrovare un gusto appunto per il futuro, un gusto per anche una volontà, se vogliamo, oltre che con gusto appunto sonoro, anche una volontà di spingere appunto delle macchine utilizzate, ma appunto potremmo dire con il sapere appunto dell'epoca. Poi questa implementazione sia in termini appunto tecnologici della possibilità dell'impianto MIDI collegato a bucla fa uscire i primi esperimenti a metà degli anni 70 potrebbero portare uso condizionale, perché poi di fatto, e come dicevo prima, accennavo, ci saranno altre vie altrettanto interessanti, intendiamoci, da queste parti poi spesso vengono passate appunto elettroniche degli anni 80 fatte con le strumentazioni appunto dell'epoca, appunto per prima citavo i Korg, tanto per e le Roland, per essere insomma vintage e poi di fatto questa appunto riemersione, potremmo dire, di un suono, di un immaginario legato a un suono, parte proprio dall'inizio degli anni zero, tra l'altro da ex terroristi sonori digitali spintissimi americani, che creeranno insomma un suono decisamente interessante, proprio partendo dalle prime sperimentazioni legate alle strumentazioni appunto primordiali, pionieristiche, però in questo senso, come appunto il Buchla. Potremmo citare ad esempio uno su tutti, Lesser, ad esempio, e poi le varie incarnazioni appunto che ha avuto poi nel proseguo della sua tanto splendida parabola. E con appunto Kathleen Aurelia Smith andiamo a trovare anche appunto quella grande figura di riferimento, finalmente riscoperta, veramente è questione di pochissimi anni, sono 2 o 3 anni che escono dischi sepolti poi di fatto dal tempo, dal fatto insomma che altre cose siano andate per versi che poi magari non sono stati pienamente interessanti. Se pensiamo alla Susan Chani, di lei sto parlando della metà degli anni Ottanta, quando insomma il suono si stava portando sempre più verso una new age fin troppo acquietata, veramente un suono grazioso ma appunto anche piuttosto leccato. Ecco, forse questo potrebbe essere una cosa che insomma, è assolutamente da evitare, ma probabilmente appunto sia la Kathleen Aurelia Smith che le altre che stanno insomma riprendendo quei discorsi appunto iniziati e mai forse sviluppati o sviluppati soltanto in parte, come quello che andremo a sentire tra l'altro dopo il pezzo con Kathleen Smith e Susan Chani, ultimissimo lavoro appunto del 2016. Dopo andremo ad ascoltare invece uno storico lavoro proprio della metà degli anni 70 di Susan Chani, edito tra l'altro da pochissimo tempo, sono finalmente stati rieditati o editati addirittura, perché molti erano lavori neanche stampati, dei primi esperimenti fatti con la Buchla, fatta con la strumentazione elettronica appunto che vedeva Susan Chani tra le figure di maggior riferimento. In effetti non è un caso tra l'altro che passerà proprio da Loft di Morton Subotnick. Stiamo sentendo tra l'altro già una parte appunto della 2 parti dentro appunto questo Buchla Concert del 1975, ma avremo modo appunto di ascoltarlo ampiamente tra poco. E nel frattempo Synergy, disco che già nel titolo ha questa idea di appunto futuro, futuribile, anche con quel senso appunto potremmo dire vagamente ottimistico della faccenda. È un ottimismo però che più che altro si basa, potremmo dire, su un'utopia, sull'utopia appunto di un futuro che possa liberare, quindi un futuro che di fatto, partendo da un'emancipazione, se vogliamo, legata alle strumentazioni tecnologiche, poi possa essere appunto una sorta di liberazione. Non siamo qua ovviamente in territori di rivendicazione politica, ma siamo in termini di immaginario sonoro, che poi ovviamente non può che essere questo, dei riferimenti anche appunto a mondi appunto utopici che vengono accesi o vengono appunto acquietati e poi appunto quasi spenti, potremmo dire, da molte new age appunto che hanno attraversato anche i lavori di Susan Chani, tra l'altro famosa appunto per i lavori new age, e finalmente, e quindi lo ripeto qua, viva Dio, si potrebbe dire che negli ultimi 2 o 3 anni si è invece recuperata la Susan Chani degli anni 70 e questo recupero, tra l'altro, porta la Ciani a questo bellissimo lavoro insieme alla giovanissima Catherine Aurelia Smith per questo disco veramente notevolissimo, che appunto Synergy, una sinergia appunto solare veramente lucente, potremmo dire, perdonatemi insomma così la facile facile metafora, però insomma in questo caso sentirete anche perché utilizzo termini così un po' più semplici rispetto a un lavoro veramente eccezionale. veramente potremmo dire incredibile, scusate se uso aggettivi piuttosto così inflazionati, ma veramente vive di una grande emotività, anche di una grande passionalità che appunto ci porta verso veramente immaginari molto, molto spinti in termini appunto futuristici, o perlomeno futuribili. Poi non so se la Ciani ami tanto appunto l'avanguardia legata appunto ai futurismi, però di fatto insomma di certo ama i suoni d'avanguardia e appunto e le ricerche d'avanguardia, visto che esce appunto proprio da quel grande giro che fu appunto legato anche proprio anche all'invenzione della strumentazione in bucla. Tra l'altro, se volete saperne di più, in maniera insomma senz'altro più approfondita, io sto soltanto accennando a delle cose, c'è un bell'articolo di Gino Alsoler sull'ultimo blow up di febbraio 2017, quindi andatelo magari a recuperare, dove appunto si parla di questo mitico strumento che appunto la Ciani nel 1975 portava a livelli veramente inauditi dentro appunto uno degli spazi più importanti per quanto riguarda le sperimentazioni minimaliste, ma non solo, anche per l'elettronica, l'elettroacustica che si sviluppava in America, in particolare a New York, il loft di Finn Niblock, posto incredibile, potete tra l'altro ancora andare a vedere, basta suonare il campanello, sta vicino tra l'altro a Little Italy, se avete insomma modo di arrivarci, veramente un'esperienza incredibile, una astronave, una macchina del tempo che insomma veramente riesce ad annullare spazio-tempo, portandomi appunto su dimensioni veramente altre. E la Ciani appunto, prendendo questa astronave, sia quella della bucla come strumento, lei come guidatrice, e dentro appunto questa piattaforma spaziale, tra appunto il sinfonico con quest'idea di 2000 spintissimo e di futuro in generale, e appunto lo spazio inteso anche in termini di partenza fisici, che è appunto il loft di Niblock, ma appunto è una partenza per andare verso veramente appunto lo spazio. Bucla 1975, utilizzato appunto dalla splendida Susan Ciani, il concerto appunto edito in poche copie appunto a metà degli anni 70, finalmente viene rieditato. Ben felici di poter ascoltare questo gioiello appunto delle musiche elettroniche. Thank you. Thank you. tratto da un lavoro eccezionale, come dicevo prima, e solo così può essere considerato questo concerto, anzi questi due concerti inseriti dentro questo Buchla Concert 1975, quello che abbiamo ascoltato, appunto questa parte è presa direttamente dall'happening spaziale, potremmo dire, fatto al loft di Finn Niblock, appunto proprio in quell'anno 1975. Beh, una delle grandi allieve, oltre che Catherine Aurelia Smith, senz'altro è Marielle Jacobson. Andiamo a concludere con lei, in realtà, insomma, e scampiamo anche, come dire, la figura maschile che sembrava aleggiare, probabilmente poi continueremo il prossimo 451, magari inserendo anche questa figura maschile. Non rompiamo, come dire, appunto queste magie sonore create appunto attraverso il bucle, attraverso questo tocco decisamente avveniristico e con quel senso umanista anche che era dentro ed è dentro, appunto, perché anche la Ciani, appunto, ritrovata proprio dalle sue allieve, dai suoi allievi, dai suoi discepoli, che tra l'altro appunto stanno proprio ristampando le sue opere della fine degli anni 60 e quelle appunto degli anni 70, proprio come questo Buchla che abbiamo ascoltato, Buchla Concert. E Marielle, quindi Jacobson, per finire questo 2000 Symphony Space, già dentro formazioni e progetti dediti al drone che si apre verso una sorta di ambientazione appunto spaziale, già con appunto The Eight Palm e Portrait tra le belle esperienze di questi ultimi anni, proprio in termini di questo tipo di ricerche, appunto questo tipo di sperimentazione sonora veramente a tutto campo e anche fuori campo, appunto come questo 2000 Symphony Space di 451 frammenti sonori in compagnia mia di Max Macchia, che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. Fate i bravi? Ma sì, via, fate i bravi.